Sudafrica 2010, i mondiali in diretta. Buongiorno da Johannesburg e da Dario Ricci. I dolori di Gigi Buffon, l'impresa della Svizzera, le lacrime del Sudafrica, le stoccate di Diego Armando Maradona. Tante le storie che si intrecciano alla Coppa del Mondo. Nel ritiro azzurro di Centurion, Buffon è quasi al passo d'addio al Mondiale. Un'ernia del disco riduce al minimo le possibilità di rivederlo in campo. Anche se si proverà a recuperarlo fino all'ultimo, spiega il medico della nazionale Enrico Castellacci. Come ipotizzato, la forte sciatalgia che ha colpito il giocatore è dovuta a una piccola ernietta del disco, poi confermata anche dalla risonanza magnetica effettuata stamattina. Questa piccola ernietta del disco che comprime la prima radice sacrale della gamba sinistra, e per questo ha creato quei grossi problemi che avete visto tutti. Nell'ultima partita abbiamo deciso che il ragazzo rimarrà con noi, effettuerà tutte le cure e naturalmente da parte nostra ci sarà tutto l'impegno per provare a recuperare il giocatore. Almeno il recupero di Pirlo procede positivamente. E a dare forza al gruppo azzurro ci sono gli esordienti come Simone Pepe, che portano entusiasmo e grinta. Sì, è vero, l'esperienza internazionale è importante, ma quando ci metti tanta voglia, tanta grinta, e c'è un gruppo che ti aiuta, quando c'hai 9 campioni del mondo che ti danno consigli e che comunque ti trasportano anche in campo, facile per tutti comunque inserirsi in un gruppo. Poi in campo, se sei qui, il mister dice, se siamo qui è perché ci ha portato i 23 migliori che ci sono in Italia. Per cui questo è ancora di più ti carica, perché poi il mister quando parla ti trasmette qualcosa di importante. Domenica c'è la Nuova Zelanda, ma Chiellini intanto prova a guardare un po' più avanti. Secondo me piano piano nel torneo le grandi cresceranno e si delineeranno poi le favorite e verranno fuori le squadre alla fine che poi andranno fino in fondo. Io sono sempre convinto che noi possiamo far bene, possiamo arrivare fino in fondo. È importante arrivare primi nel girone, quello sicuro, perché comunque ci farebbe evitare l'Olanda, che io sono convinto arriverà prima nell'altro girone, e poi ce la giochiamo, insomma. Se la squadra cresce partita dopo partita, può far paura a chiunque. Sul campo ieri l'impresa l'ha fatta la Svizzera, che nel gruppo H ha battuto a sorpresa per 1-0 la Spagna, campione d'Europa. Decide un gol di Fernandes nella ripresa. La gioia del terzino elvetico della Lazio, Lichtsteiner. Sicuramente abbiamo fatto una grande partita, abbiamo bisogno anche un po' di fortuna, sicuro. Ma alla fine siamo riusciti con questi 3 punti, è fenomenale per noi. Ma adesso dobbiamo essere molto attento, perché vengono 2 partite ancora più difficili, perché dobbiamo fare la partita e dopo sì, sicuramente dopo questi 3 punti, prima partita contro Spagna, sicuramente era sempre il nostro obiettivo passare il turno. Sempre nel gruppo H vince in pressione il Cile di Bielsa, che supera 1-0 l'Honduras. Le lacrime dei tifosi sudafricani sono invece tutte per i Bafana Bafana, travolti 3-0 dall'Uruguay a Pretoria e ora a un passo dall'eliminazione. Doppietta di Forlan, il secondo gol sul rigore con espulsione del portiere sudafricano Kune, e poi Pereira i marcatori. Tutto può ancora succedere, afferma un Pereira comunque molto deluso. Ma i tifosi non ci credono più, tanto che anche le vuvuzelas a tarda sera smettono di suonare. Brutto segno. Oggi sempre per il gruppo A, Francia-Messico alle 20:30. Prima però il gruppo B, con la seconda giornata alle 13:30, tocca all'Argentina contro la Corea del Sud, entrambe a 3 punti. E già entriamo nel mondiale, già sappiamo che stiamo Sebastián quiere jugar. Pelé, no. Meglio che se ne torni nel museo. E con Platini invece non ho mai parlato. Chiarisce un Maradona a tutto campo che lascia a riposo il pupillo Verón con qualche problema muscolare. Alle 16 sfida tra Nigeria e Grecia, quasi uno spareggio per decidere chi potrà sognare per qualche altro giorno. Per il momento è tutto, ancora una buona giornata da Johannesburg.